bene, se ti riprodi, sono nato a Napoli, vissuto la maggior parte della mia vita tra Firenze e Berlino, sono urbanista di formazione e filmmaker, medio artista nella pratica, segno zodiacale gemelli, che significa molto poco ma rappresenta bene la dualità di questi due interessi e pratiche, diciamo, da un lato la relazione con lo spazio costruito, con la città materiale, dall'altro la pratica dell'immagine e dell'immaginario, e intanto vorrei ringraziare Giorgio De Finis, Linda, il Festival Teleperiferie per avermi invitato a presentare il primo libro che alla fine abbia scritto, molto in ritardo, è stato lì a gestire, in gestione per lungo tempo, è uscito di recente per l'agenzia X, una casa editrice a cui sono parecchio legato anche per questioni proprio di trascorsi nel sottobosco culturale d'Italia degli anni 90. E il libro appunto si occupa di questa relazione tra spazi d'immagine che in qualche modo definisce il mio percorso nel corso degli anni, una dualità che inizialmente aveva dei confini abbastanza ben definiti. Io da studente di architettura e poi da ricercatore mi sono occupato di spazi urbani, nello stesso tempo in cui nella pratica e anche nell'attivismo mi occupavo di media, di produzione di video e di immagine, e fino al punto in cui non sono stato in qualche modo colto da una sorta di illuminazione, che è stato il progressivo rendermi conto che in realtà parlavo e facevo le stesse cose. Nel momento in cui mi muovevo come urbanista architetto, nel momento in cui mi muovevo come ricercatore dell'immagine, diciamo così. Siccome sono pigro, forse per definire un po' meglio questa dualità sfociata in una prospettiva unica, vado a leggere semplicemente le prime righe del mio libro, che dice: le città sono impastate di pietra e di sogni. Questa suggestione che ha guidato costantemente la mia fascinazione per l'urbano è alle origini degli argomenti esposti in questo libro. L'intreccio tra la natura geologica e quella fantasmagorica della città rappresenta la chiave attraverso cui ho cercato di districare la complessità del fenomeno urbano. In termini più analitici, si tratta del dispiegarsi di un intreccio tra i processi di produzione spaziale e quelli di produzione delle immagini, tra il costruito e il rappresentato. L'ipotesi principale illustrata nel libro è che abitiamo uno spazio saturo di rappresentazioni che si dispiegano in un continuum con il territorio, risultato di un lungo processo incrementale di ibridazione che ha raggiunto oggi uno stadio epocale. La moltiplicazione esponenziale dello spazio rappresentato e il modo sempre più immersivo in cui lo abitiamo determinano un salto paradigmatico nel rapporto tra uomo e ambiente, che, tra le molteplici conseguenze, mette profondamente in discussione i concetti stessi di città e cittadinanza, favorendo un processo di urbanizzazione planetaria e di interconnessione fluida mediata da immagini. E se mi permettete una pausa, dunque, questo libro che io ho messo insieme, come dicevo prima, è un libro che è arrivato in ritardo, è rimasto in un cassetto per circa 20 anni, perché inizialmente avrebbe dovuto essere la pubblicazione della mia tesi di dottorato fatta nel 2004, in cui mi occupavo sostanzialmente della trasformazione dello spazio pubblico all'insorgere dei nuovi media e della Information Communication Technologies. Di fatto la mia pigrizia l'ho lasciato sedimentare, ma ha fatto anche sì che nel frattempo le osservazioni e anche i percorsi che ho attraversato lasciassero nuove connessioni formarsi, anche nuove evoluzioni, andare a sostanziare in maniera più interessante l'argomento, oltre al fatto di avermi consentito di espungerlo di eccessivi accademicismi e di fatto quello che doveva essere il tentativo di tardivo di pubblicare la mia tesi di dottorato si è trasformato in riscrivere completamente qualcosa di nuovo sulla base della percezione di cosa è successo anche nel corso degli ultimi 20 anni. È dunque un libro che si basa intanto sull'esperienza di attraversamento di 3 città che erano i casi studio della mia tesi di dottorato: Firenze, Berlino e New York. Si basa anche su, diciamo, le referenze abbastanza forti al pensiero, all'opera di Henri Lefebvre, che peraltro storicamente ha incentrato molto del suo lavoro sulla sua famosa triplice dialettica di spazi vissuti, spazi percepiti comunque una triplice lettura dello spazio urbano e che mi ha portato anche a strutturare, diciamo, questo libro nella forma di 3 sezioni sostanzialmente, che guardano 3 momenti diversi del mio attraversamento della città, ma anche a quello che un po' alla volta è andata a strutturarsi come una, diciamo, ripercorrere il processo di urbanizzazione planetario attraverso 3 fasi essenziali. L'urbanizzazione planetaria è ancora una volta un concetto lefebriano, di Henri Lefebvre. Henri Lefebvre negli anni 70, nella sua opera a occuparsi in maniera sensibile di spazi urbani, focalizza sull'idea di una rivoluzione urbana che significa anche il passaggio, per come lo leggo io, da analizzare la città come un oggetto all'urbanizzazione come un processo. È un processo che va in qualche modo a espandersi e irradiare la dimensione planetaria in maniera sempre più evidente, non solo in termini di generare spazi costruiti, ma anche e soprattutto in termini di generare connessioni, flussi e relazioni causali tra i fenomeni che avvengono ogni angolo del pianeta, sicuramente fortemente in relazione con la concentrazione di potere, di economie e di consumi delle città, ma indubbiamente senza travolgendo completamente la distinzione urbana e rurale tra natura e artificio e varie altre distinzioni. Quindi io, diciamo, sono collocato sulla scia dei geografi critici che adottano l'idea della planetary urbanization, ma nella mia particolare declinazione o deformazione di filmmaker e lavoratore dell'immagine, ho anche sempre di più focalizzato la mia attenzione sull'aspetto della produzione di immagini come elemento fondamentale nella il processo di urbanizzazione planetaria. Quindi diciamo questo, il mio lavoro e questo libro si svolge tutto in questa chiave tre città, tre momenti che io vado ad analizzare, tre sezioni del libro e svariate qui e lì altre, diciamo, riferimenti al numero 3, ma diciamo che la parte fondamentale, credo, da discutere qui sia questa idea di evoluzione del processo di urbanizzazione da quella che è la dimensione orizzontale, che io da cui ho intitolato la prima sezione del libro Estensione, a quella verticale, che ci porta al capitolo Elevazione, fino a quello finale che ho chiamato Evaporazione, e spiegherò più tardi. Dunque, come avevo detto prima, il percorso di questo libro nasce da un'esplorazione dello spazio pubblico globale, fatto nel contesto di una tesi di dottorato sulle trasformazioni dello spazio pubblico. Queste che vedete alle mie spalle sono fotografie più o meno di quel periodo, fanno parte della documentazione di quella tesi, partendo da un vissuto che inizia da studente occupante della Pantera, esploratore, utilizzatore di spazi sociali autogestiti, liberati, mi sono inoltrato in analizzare, diciamo, i fenomeni che avevo sotto mano intorno a me a Firenze, ovvero sia da un lato l'espropriazione dello spazio pubblico, del centro storico, per in qualche modo piegarsi a una nuova economia dell'immagine, al processo di quello che già anticipavamo a Firenze chiamando Firenze da Disneyland del Rinascimento negli anni 90. Era una boutade su cui giocavamo a immaginare che i processi che stavano trasformando il centro storico in monocultura turistica stessero di fatto stabilendo un leisure park disneyificato. Però di fatto quella critica era piuttosto lungimirante, perché adesso possiamo riconoscere che quello che sembrava una peculiarità del centro storico di Firenze, come di Venezia o come di parti significanti del centro di Roma, in realtà fossero semplicemente i prodromi di un fenomeno che sarebbe andato a investire poi i territori di una dimensione più ampia, anche i territori rurali, i villaggi, i borghi, i parchi, ovunque in qualche modo il processo che abbiamo visto emergere nel corso degli anni ha più o meno generalizzato un certo tipo di dinamiche ovunque. Però lì stiamo, ecco, non anticipiamo troppo, il percorso nasce da lì, nasce da il prendere coscienza di processi di progressiva, quella che noi nella ricerca diretta da Giancarlo Pabba negli anni con cui mi sono laureato e con cui ho fatto il dottorato negli anni 90 e primi 2000, definimmo la città cancellata, ovvero sia una città soggetta sia una cancellazione fisica proprio degli spazi pubblici tramite inferriate, catene e dissuasori di origine materiale, ma anche cancellata dal punto di vista simbolico, sottratta alla vita sociale quotidiana, all'uso sociale della popolazione. E dall'altro punto di vista mi frequentavo i margini, gli interstizi della città in via di trasformazione, la città industriale dismessa di Firenze, come nella maggior parte delle città italiane, che in qualche modo lasciava spazi sottratti alla produzione materiale, che non erano ancora, come dire, soggetti agli strumenti tanto pianificatori quanto, diciamo, materiali per una riconversione in questa dimensione dell'economia simbolica, come sarebbe poi successo presto da lì, e quindi ancora disponibili ad una così genia di pratiche dal basso, spontanee, di riappropriazione, nelle quali io mi sono trovato immerso e sulle quali ho cominciato a fare il mio lavoro di ricerca e di riflessione su quello che intanto era un processo di riconversione della produzione materiale verso una produzione sostanzialmente simbolica, ma che avveniva intanto e principalmente attraverso la riappropriazione spontanea, quotidiana, degli abitanti, dei giovani, dei resistenti in un modo o nell'altro. Quindi nel corso di questa prima fase che io racconto nel libro avviene sostanzialmente estensione, un'esplorazione della dimensione orizzontale dello spazio pubblico, specialmente in senso di scoperta delle periferie, riconquista delle periferie, ma non solo. Qui dietro di me ho le foto di Berlino, che in qualche modo però, dove ho, dopo la tesi, sono, che era uno dei casi studio della mia tesi, in cui sono finito a vivere successivamente, in cui in qualche modo questa dimensione dello spazio negletto e disponibile era anche al cioè non era come nel caso di Firenze ristretto a una serie di frammenti della città industriale in abbandono, marginali e periferici, ma in realtà investiva l'intero corpo della città, pieno di vuoti urbani, di spazi liberati dai bombardamenti ancora disponibili, di flacche, di aree riconquistate prima di tutto dalla natura, dal verde, e poi poco a poco dai cittadini, in cui fiorivano pratiche di riappropriazione creative, semplicemente di sociali, di uso dello spazio pubblico. Ora, in questa situazione, quello che emergeva però era anche uno spostarsi molto forte dell'attenzione da quella che è la produzione materiale, da quella che è la realtà materiale della città, alla dimensione simbolica, alla dimensione semantica, e questo in qualche modo porterà, diciamo, soprattutto con il concludersi del mio viaggio di ricerca del periodo del dottorato a New York, a realizzare la crescente importanza di un processo di appropriazione della dimensione semantica della città, che avveniva e si sviluppava soprattutto nella dimensione verticale. Ovvero sia, stava avvenendo un progressivo spostarsi della logistica, dello sfruttamento della città, dal potenziale della superficie verticale per la movimentazione delle merci, per l'alloggio delle persone, per il vivere, alla capacità di estrarre valore dalla dimensione simbolica, che avviene soprattutto sulla uno sviluppo verticale. Dunque, in qualche modo, le conclusioni della tesi, che poi porteranno al lavoro successivo e alla seconda parte del libro, sono quelle in cui ci spostiamo dall'urbanistica dell'estensione all'urbanistica dell'elevazione, alla appropriazione e conquista della dimensione semantica, della quella che Paul Virilio ha chiamato la logistica della percezione, in un libro che si chiama peraltro Cinema e Guerra, molto puntando molto chiaramente sulla dimensione proprio strategica della del mezzo cinematografico come strumento di controllo e di amministrazione del potere. E quindi la terza parte del mio viaggio comincia sostanzialmente da New York, comincia sostanzialmente da Times Square, comincia sostanzialmente da uno spazio urbano in cui la superficie calpestabile ha pochissima rilevanza rispetto alla superficie delle facciate, dei palazzi dinamici in cui i messaggi si affastellano, in cui in qualche modo ritrovavo chiaramente la dimensione cinematografica espressa in maniera estremamente evidente, ovvero sia uno spazio, se voi vedete Times Square è una X, non è neanche veramente uno spazio visibile, è un incrocio, scorrimento, esposizione. Trovavi qui la ridefinizione del concetto di spazio pubblico in Space of Exposure, l'ho definito io, utilizzando parola inglese perché tutto sommato dà meglio la dimensione di esposizione fotografica rispetto alla semplice parola spazio di esposizione, ma comunque sostanzialmente è uno spazio in cui la cosa importante è dominare la percezione e sommergere il pubblico, inteso qui veramente in termini di spettatore, di messaggi frastornanti, conquistarlo nell'economia dell'attenzione. Quindi, diciamo, la seconda parte del libro, la seconda sezione, che si chiama Elevazione, analizza tutta una serie di fenomenologie che sono connesse con questa rivoluzione urbana, che è una rivoluzione letteralmente in senso geometrico, dalla logistica orizzontale degli spazi a quella verticale, e che ha tutta una serie di corollari e di manifestazioni particolari. Voglio dire, riconosciamo la dimensione della logistica verticale, ad esempio, nell'importanza del branding dei luoghi, nella centralità delle vetrine nelle strade fondamentali della città. Quando parlando di urbanistica verticale che prende il sopravvento, non voglio dire che scompare l'importanza dell'uso degli spazi, però significa che magari la boutique del centro, che spende per avere in via Monte Napoleone o in via Tornabuoni la sua vetrina, non recupera la sua spesa dal vendere la roba in negozio, ma da esporre il marchio, da essere presenti. Poi magari fuori dai luoghi della visibilità, nei centri logistici o negli outlet di periferia, c'è la vendita vera e propria, ma la cosa fondamentale è essere visibili nello spazio di visibilità. Questa cosa si riflette, ovviamente l'urbanistica verticale non è che nega ovviamente i grattacieli sono anche parte di questa verticalizzazione architettonica, però l'aspetto fondamentale del grattacielo sta più nella sua visibilità che non nella logistica d'uso. Sono più dei simboli fallici, in qualche modo, evidentemente, di potere, di centralità, che non sostanzialmente dei modelli necessariamente produttivi. Ovviamente c'è anche un aspetto di sfruttamento della superficie fondiaria esasperato, però diciamo che tutto ci porta in quegli anni nella spostamento da questa dalla dimensione orizzontale, che per esempio qui in questa sequenza di fotografie a Bologna è ben rappresentato. La logica dello spazio pubblico in termini classici, orizzontali, arriva un attivista, posa una sedia a terra, mette davanti tre fogli, sale sul gradino, si forma intorno a lui un cerchio orizzontale. Il cerchio orizzontale è in qualche modo il simbolo che rappresenta lo spazio pubblico tradizionale. E invece quello che io racconto in qualche modo nella mia ricerca è lo spostamento verso un nuovo elemento simbolico forte, che è il rettangolo verticale, che tra un po' dovrebbe arrivare nella sequenza di foto, che è quello del cartellone pubblicitario ritagliato nelle facciate degli edifici sotto rigenerazione, che è quello della cartellonistica, della sempre più preponderante advertisement che conquista le città, che è quello per cui in un certo senso lo schermo viene a sostituire il muro come elemento base della costruzione architettonica della città. Non è più l'elemento opaco, eccoci lo schermo, non è più l'elemento opaco contenitore che separa, ma è l'elemento che nasconde quello che c'è dietro, ma mostra un'immagine che non è necessariamente correlata con quello che c'è dietro, che non è trasparente, costruisce un'identità sopra quella che è la dimensione dello spazio. Questo passaggio significativo viene raccontato in tante cose, dall'entrare in un autogrill, dove l'organizzazione dello spazio tradizionale, razionale, quello di rendere lo scorrimento tra i luoghi, i diversi punti più rapido possibile, la logica postmoderna verticale dell'organizzazione dello spazio commerciale, e io ti faccio infilo in una dedalo in cui sei esposto al maggior numero di merci possibile. Prima di riuscire all'autogrill dove sei entrato, ti devi passare tutto la esposizione verticale davanti agli occhi di quello che ti voglio far vedere. Quindi, diciamo, la seconda parte del libro si concentra soprattutto su questa fenomenologia di conquista delle superfici verticali, ma anche, tutto sommato, di costruzione dell'immagine, produzione di immagine che prende il sopravvento sulla produzione di spazi, o quantomeno prende un ruolo di guida, nel senso che le città, come per esempio Berlino, che ormai osservavo da più di un decennio, gli spazi che prima erano disponibili per l'uso orizzontale pratico, la colonizzazione, cominciano a popolarsi di queste enormi superfici verticali piene di rendering che ci raccontano l'immagine futura di una città che ancora non esiste ma serve ad attrarre dei capitali. Quindi si produce l'immagine prima dello spazio materiale. Questo è questo è uno degli esempi su cui ho giocato molto, è la Leipziger Platz, vicino Potsdamer Platz a Berlino, dove finalmente, dopo anni di vuoto, vedo tirar su delle impalcature, pensando che comincino a costruire qualcosa, invece no, fanno un villaggio Potemkin, costruiscono una scenografia con la facciata di un palazzo che resterà lì per 8-10 anni in attesa che qualcuno finalmente decida a investire soldi per farlo diventare, sottraendo uno spazio possibile all'uso della città, ma sostituendolo con un'immagine di belli biondi con gli occhi azzurri, di persone molto attraenti, fotografate, che si muovono in questa enorme scenografia di città verticale ma senza sostanza. Quindi questo è la secondo blocco del libro, racconta questa fenomenologia della verticalizzazione, intesa proprio come proliferazione delle immagini e conquista del territorio urbano da parte del mondo delle immagini, a cui corrisponde anche ovviamente uno spostarsi delle economie urbane in maniera sempre più chiara su quelle che sono le professioni creative, su quello che sono i settori trainanti della produzione dell'immagine. Quindi in un certo senso questo spostamento corrisponde anche a uno scambio dal paradigma industriale, produttivo, fordista, che in qualche modo ispira l'urbanistica moderna dello zoning, la città costruita per settori dedicati a determinate funzioni, come in una linea fordista in qualche modo che produce i diversi pezzi, viene sostituita dalla timeline dell'editing cinematografico, sostanzialmente. Cambia profondamente la logica in termini di spostare molto di più nel senso della programmazione, dalla pianificazione degli spazi alla programmazione dei tempi, alla programmazione delle immagini, quindi avvengono tutta una serie di fenomeni che sono la festivalizzazione delle nostre città, che ormai sono completamente organizzate intorno a delle temporalità straordinarie che funzionano da milestones, da appunto quelli che una volta erano le emergenze architettoniche diventano le emergenze temporali, le biennali, i saloni della moda, l'Oktoberfest o altro. Si sposta l'attenzione progressivamente sulla programmazione del palinsesto, di una città palinsesto che organizza flussi di immagini e che ovviamente determinano la trasformazione fondiaria, la trasformazione architettonica della città. Però, diciamo, la dimensione poi della produzione rimane celata, lontana dalla visibilità, perché è sempre soggiogata alla necessità, all'urgenza del, non parliamo poi di quando arriviamo ai grandi eventi sportivi, all'Olimpiade o quello che siano i giochi invernali o i campionati mondiali di calcio, indiscutibili per la loro urgenza, totalmente avvolgenti nella loro produzione di immagine, dietro cui avvengono poi, diciamo, la produzione materiale. Ribadisco ancora una volta, non sto parlando di una produzione materiale architettonica solida della città che scompare, sto parlando di tutta questa parte che finisce sempre meno visibile dietro alla facciata costruita nel processo di produzione di immagini. Qui abbiamo un altro caso interessante che io ho messo per raccontare di come anche sul piano delle resistenze si sposti l'attenzione sulla dimensione verticale. Non è un caso che la graffiti art diventi una parte estremamente rilevante della produzione artistica. La colonizzazione delle superfici urbane della città è una risposta alla colonizzazione del branding, corporate branding. Questa è la storia ancora a Berlino dell'atto molto forte dell'artista italiano Blu, che decide di cancellare quella che era l'opera di street art più iconica di Berlino, East and West, che lui aveva fatto qualche anno prima, nel momento in cui il quartiere viene a essere gentrificato, trasformato, viene sgomberata quella cittadella spontanea che avete visto nelle foto precedenti, che era nata nella Cour Braque, un classico esempio di queste zone riconquistate dal basso a Berlino, fino a in qualche modo essere destinata a diventare un edificio di lusso per loft creativi, e l'artista decide di fare un atto di autoiconoclastia, coprendo il suo graffito per sottrarlo alla speculazione, per sottrarlo alla sussunzione all'interno di quello che è la gestione dell'immagine, la gentrification della città e via dicendo. Quindi diciamo che una parte della seconda sezione viene dedicata anche alle strategie di resistenza. Ancora una volta si parla anche ad esempio della commodification, della mercificazione del muro di Berlino. Anche lì un caso di passaggio dalla dimensione verticale alla dimensione orizzontale. Il muro di Berlino, che era sostanzialmente una separazione materiale che impediva il movimento orizzontale, lo spostarsi, in questo processo di verticalizzazione diventa superficie simbolica su cui primo si sviluppa l'azione spontanea degli artisti di strada che lo riconquistano all'immaginario collettivo, e poi questo immaginario viene in qualche modo recuperato all'interno della gentrification, la East Gallery che adesso in questo momento è gestita come parte del patrimonio di Berlino, ripulita dagli altri graffitisti che vorrebbero andarci sopra, e conservata nello stato artificiale di opera protetta, e diventa, ecco, avviene questo spostamento dalla dimensione logistica del muro che divideva le due Berlino a uno sfruttamento verticale della superficie come parte della logistica della percezione della città. Quindi fin qui tutto, diciamo, nel mio viaggio in cui mettevo insieme le mie due prospettive di filmmaker che guardava la produzione di immagine e urbanista che guardava la produzione di spazio e rifletteva su come stessero diventando esattamente la stessa cosa e non poter più tracciare delle distinzioni nette, e fino a qui le cose tornavano. Poi è successo qualcosa che non ha inficiato o invalidato del tutto l'idea e il paradigma, ma ha complicato le cose e che mi ha portato a immaginare la terza fase dell'urbanizzazione planetaria e la terza dinamica, quindi diciamo questa verticalizzazione, questa proliferazione delle immagini, la conquista delle immagini di tutto il territorio, in maniera sempre più intensa, in maniera sempre più distribuita, arriva ad un, come l'onda che si rompe, a una fase di rottura, ad una schiuma, che ha una vaporizzazione, quella che io appunto definisco nella terza sezione del libro evaporazione, che corrisponde dal punto di vista temporale, secondo me, nella finestra, diciamo, il momento critico nella finestra che sta tra il 2001 e il 2008. Allora, faccio un passo indietro, faccio una premessa. Ho dato una periodizzazione anche alla prima fase, al passaggio dalla fase orizzontale alla fase verticale. L'ho individuato idealmente intorno al 1968, in cui sono successe tantissime cose, come noi sappiamo bene, e ci sono tantissime epistemologie, tantissime narrazioni che partono da elementi diversi, ma che convergono lì. C'è il Right to the City di Henri Lefebvre, c'è la comparsa delle prime tag sui treni di New York, c'è l'esplosione dei Pruitt-Igoe a Baltimora, che secondo, no, St. Louis, che secondo alcuni segna l'inizio del postmodernismo. Secondo me l'aspetto cruciale, però, di forse più simbolico di questo passaggio paradigmatico all'epoca verticale è l'arrivo sulla Luna. Ma non tanto anche per la tecnologia missilistica, ma anche e soprattutto per la prima trasmissione televisiva globale. Tra l'altro è stato preceduto di pochi mesi dalla prima Olimpiade di Mexico City, che con i computer Olivetti aveva prodotto la prima trasmissione globale, ma sicuramente quell'evento, quello della visibilità, che include anche questa prima capacità di vedere la Terra nella sua interezza dall'esterno, per tutti, questo momento simbolico di passaggio avere la sfera e poterla dominare attraverso una trasmissione televisiva globale. Quel momento simbolico, secondo me, è l'inizio, funziona bene a rappresentare l'inizio della grande verticalizzazione, proprio perché è anche l'inizio conquista dell'orbita e del cominciare a piantare i satelliti intorno al pianeta e quindi cominciare a produrre un dispositivo di visibilità complessiva globale che da essere, diciamo, possibile per il jet set comincia a diventare percezione di massa, comincia a diventare l'esperienza quotidiana di tutti. E in particolar modo 40 anni dopo entra all'inizio degli anni 2000 che abbiamo un passaggio drastico che include i fuochi d'artificio con le torri gemelle e fino alla crisi dei mutui subprime che scuotono il pianeta in maniera diversa, ma in realtà fondamentalmente si concretizza soprattutto attraverso una serie di svolte tecnologiche che sono il GPS, lo smartphone, il touchscreen, la nascita di Airbnb, la nascita dei social media, la nascita di tutta una serie di trasformazioni tecnologiche che si irradiano e si integrano in maniera estremamente fluida, senza scossoni nella quotidianità di tutti, ma in realtà trasformano in maniera profondamente, alterano dal punto di vista antropologico la maniera in cui noi viviamo lo spazio urbano, viviamo lo spazio in generale, come viviamo la vita. Il touchscreen simbolicamente è veramente l'entrare nel mondo delle immagini, toccare le immagini è un passaggio veramente a cronenbergiano, di passare da una dimensione in cui l'immagine è comunque qualcosa di distante che tu osservi a qualcosa che tu vivi, in cui tu entri. Ed è quel passaggio che io racconto in qualche modo nella terza parte, che è quello che ci porta dalla città che noi attraversiamo alla città che ci attraversa. Ormai conviviamo con la visualizzazione dell'intero pianeta, il Blue Marble, appunto, quella prima fotografia che i satelliti negli anni 60 avevano preso, che però tramite Google, tramite la connessione satellitare, possiamo navigare in qualsiasi momento. In un attimo passiamo dal guardare l'interezza del pianeta Terra al identificarci in un pallino blu che si muove, ci segue, ci traccia. Abbiamo questa nuova percezione di essere completamente immersi dentro questa dimensione interconnessa. Ora, questo è molto figo, ci dà un sacco di possibilità, ci crea un sacco di nuovi livelli di connessione, interpretazione, ma allo stesso tempo siamo tracciati in ogni gesto che facciamo, produciamo dati in ogni nostro comportamento e, senza renderci conto, abbiamo consegnato completamente a un dispositivo che viene a sostituire lo spazio pubblico come noi, il pubblico come noi lo conoscevamo, attraverso una infrastruttura tecnologica nella maggior parte, per la grandissima maggioranza, di proprietà privata, completamente oscuro, che non ha nessuna o quasi nessuna forma di controllo democratico, sociale. È opaca completamente il funzionamento di questa infosfera che connette il tutto e che adesso cominciamo a renderci conto di che tipo di impatti ha, nel senso che elegge i presidenti, cancella le istanze, decide se dobbiamo sapere o no di dove si compiono genocidi o dove ci sono guerre ci sarebbe tanto da dire, però poi dopo, se non vi lascio niente da leggere, non so se è il caso. Però ecco, diciamo, il libro sfocia in ragionare su questa nuova dimensione, che è la dimensione delle piattaforme. L'emergere di una platform economy che sembra essere, che nasce da Facebook, e vabbè, sono quattro studenti che cominciano a fare il rating delle studentesse su un social media, oppure due ragazzi nella Silicon Valley che mettono il materasso gonfiabile in casa e se lo affittano perché così possono dividere le spese. Tutte queste narrative della frontiera che già raccontando la gentrification dell'East Village, Neil Smith negli anni '80 aveva evidenziato come la romanticizzazione della frontiera, dello spazio di conquista in qualche modo delle culture, che si ripercuote sulla dimensione globale, trasformando completamente gli immaginari, e arriviamo al punto in cui oggigiorno, a mio avviso, quello che sta succedendo è che le piattaforme stanno cominciando ad avere una dimensione tettonica, stanno diventando delle nuove forme territoriali trasversali che in qualche modo superano, disintegrano trasformano le forme di governance tradizionali a cui siamo abituati, perché ormai non sono più soggette al controllo dello Stato, della città, in particolare della comunità locale, via dicendo. Airbnb decide nella Silicon Valley le economie delle città e filtra nelle Cayman Island i profitti di questa realtà e non collabora con le città per quello che riguarda tassare o regolamentare, sostanzialmente si sottrae completamente e stabilisce dei nuovi livelli di governo che sono sempre di più oscuri, concentrati nelle mani di uno stuolo di psicopatici pericolosi, indubbiamente, dotati di poteri quasi illimitati, ed evidentemente rimettono in gioco completamente tutte quelle che sono le maniere che noi abbiamo avuto di pensare il governo del territorio, l'amministrazione del territorio, le forme di resistenza, la trasmissione delle culture e via dicendo. Quindi il libro si conclude, diciamo, su delle note abbastanza, devo dire che è stato abbastanza facile per me, dopo aver aspettato 20 anni a mettermi a scriverlo, poi l'ho tirato giù un poco, ecco, perché ormai avevo maturato una serie di idee, ma quando poi sono arrivato all'ultimo capitolo in cui dovevo in qualche modo chiudere questo quadretto e cercare magari di essere anche propositivi in termini di che cosa vogliamo fare ancora, adesso devo ammettere che la faccenda si è dimostrata molto più complessa e molto più difficile, e quindi temo che le mie raccomandazioni finali siano piuttosto rudimentali. Sono sicuramente nel finale del libro c'è sicuramente un invito a fare attenzione a quello che sta succedendo e a prendersi delle responsabilità per sottrarsi allo strapotere delle piattaforme e per cominciare a costruire le alternative, non cadere nella narrativa che there is no alternative, che è quella in cui ci siamo condannati, perché ormai abbiamo le nostre audience, abbiamo i nostri canali, perfino le iniziative più radicali, voglio dire, si organizzano su Facebook, e secondo me questo è sicuramente un punto critico su cui dobbiamo assolutamente muoverci. E per quanto riguarda poi tutti gli aspetti che sono connessi più specificamente alla dimensione urbana e territoriale, leggete il libro, perché lì ho buttato giù un po' di osservazioni su come i nuovi media, delle piattaforme in questo momento stanno influenzando la dimensione urbana, la maniera in cui noi viviamo lo spazio urbano, la maniera in cui noi trasformiamo lo spazio, la maniera in cui noi interagiamo tra di noi, la maniera in cui noi coltiviamo anche i nostri affetti e la nostra socialità in maniera drastica, e non va bene. Grazie. Di avere i vostri commenti, domande o... Non so quanto tempo ho preso. Se ho ancora tempo o devo levarmi? Ti faccio una domanda io, però... Grazie. Tanto mi sei... Allora, intanto io mi ero rubato un titolo, quindi sono già... io volevo fare da... Volevo da tempo fare... Io ho scritto delle cose sull'ubiquità. Molto, che è un tema che mi sta molto a cuore. No, mentre ti ascoltavo pensavo come sarebbe stato sentire un racconto, diciamo, che vada dagli anni 30 agli anni 80, no? Cioè fatto da uno che perché secondo me una delle chiavi che secondo me c'è nel titolo, ma che non mi sembra che tu usi, ma che io avrei voluto usare, quindi non posso più usarlo visto che tu hai già fatto il libro. Allora, c'è una chiave sicuramente di cosa accade alle città, diciamo, dagli anni 10 agli anni 80, ed è la chiave della velocità. Cioè, sicuramente il grande mito, che è un grande mito che su cui le città cambiano radicalmente, so, è il mito, che è il mito del fatto che della rapidità, della velocità, della, no? Che non è soltanto, cioè, per, è un po' la chiave, per questo lo dico, perché non è che il mito della velocità sia soltanto un mito imposto. Il mito della velocità è un mito molto sentito, cioè, diciamo, tutto il Novecento vive con un'ebbrezza della velocità che non è soltanto del signor Ford che ci vuole assolutamente fare comprare le sue auto, ma è in qualche modo il mito di tutta l'arte di quel periodo, il mito della letteratura, il mito dei grandi movimenti, cioè il mito anche dei grandi movimenti operari, cioè il mito della velocizzazione della società è un mito, è una mitologia vera, cioè nel senso che proprio è ciò di cui si sostanzia il Novecento. Ora, secondo me, da un certo momento in poi, questo avviene già probabilmente negli anni 80, ma vagamente, però poi si rafforza moltissimo negli anni 90, e dopo a questo mito si sostituisce il mito dell'ubiquità, cioè la velocità, in fin dei conti, è qualcosa di raggiunto. La cosa che non è raggiunta è la possibilità di essere contemporaneamente in più luoghi. E anche questa è una mitologia, come si può dire, appassionante, nel senso che non è soltanto chi si inventa il mobile, no? che tra l'altro forse è l'unica vera enorme rivoluzione, no? Perché poi internet è una conseguenza, no? Però il mobile è in qualche modo il desiderio di veramente non avere residenza, cioè il desiderio di avere una residenza che sta nell'ubiquità. Allora, questa cosa, anche questa è una mitologia che non possiamo solo attribuire, capisci, a quello che una volta, c'erano una volta questi qua che dicevano c'è la sovrastruttura, e poi c'è la struttura, no, non puoi più, cioè queste cose non puoi più dirle, e secondo me nei confronti delle città, visto che le città sono, come hai detto tu, un misto tra sogno e pietra, cioè nelle città è ancora più forte, cioè le città vivono di sogni e non nemmeno di costruzioni, cioè quello che accade nelle città è l'immediata conseguenza di un sogno prevalente. Allora, come il sogno prevalente prima era la velocità, adesso il sogno prevalente, adesso non so se è ancora continuo, però il sogno prevalente è sicuramente fino ad oggi l'ubiquità, no? Con delle cadute negli ultimi anni probabilmente. Però lo dico perché secondo me è interessante che tutto, cioè nel tuo discorso non ci sono molto le masse, non ci sono le folle, non ci sono le popolazioni, perché le città non sono più, secondo me, la visibilità. Le città sono molto di più il modo con cui la gente si vive queste mitologie, se le vive fino in fondo, le soffre, e a un certo le soffre, le gode, e a un certo punto c'è un crinale in cui queste mitologie saltano. Secondo me noi siamo in un momento interessante in cui queste mitologie stanno saltando verso qualcos'altro, però dove, a prescindere da questo, una delle cose divertenti è che se c'è un gioco del potere in tutto questo, il fatto che il potere non si rende conto che la dimensione fisica delle città continua ad essere una dimensione molto influente, cioè che quando la gente protesta per strada fa qualcosa di inaspettato e di veramente efficace, no? Cioè ci sono queste due cose: da una parte c'hai l'assoluta ubiquità, no? Dall'altra parte c'hai una caduta della globalizzazione, c'hai degli effetti di come si chiamano quando cadono le cose dal tetto, di quando cadono i pezzi di cemento, di effetti di cioè quando cadono, insomma, ha degli effetti di cadute di materiali, no? Che sono molto nuove, cioè per cui non è che c'è un ritorno al localismo, c'è un'altra cosa che sta accadendo, però questo, insomma, però nel senso che secondo me questa cosa del fatto che tu racconti, cioè, la cosa che tu racconti sono questo passaggio stranissimo tra velocità e ubiquità, no? Che però è un passaggio dove a me interesserebbe, mi interessa moltissimo come antropologo, che come la gente se lo gode e se lo piange. Mi sentite? Sì, ma sono d'accordo, quindi è difficile risponderti. Ora chiaramente ho dovuto fare un po' un sunto, quindi alcuni aspetti li ho un po'. Parliamo dell'accelerazione sicuramente, la compressione spazio-temporale, appunto la cronologia viriliana penso che in qualche modo racconta proprio questo passaggio, e anche il fatto che non è che quando arriviamo agli anni Ottanta e raggiungiamo questo momento del passaggio dalla velocità all'ubiquità è perché ha finito di essere importante la velocità e siamo passati all'ubiquità. L'ubiquità è un prodotto dell'aver raggiunto questo livello di velocità diffusa. Mentre prima, voglio dire, il Concorde se lo poteva permettere De Gaulle, adesso, voglio dire, il mio messaggino parte, ritorna dall'altra parte del pianeta e torna a me, rendendo in qualche modo la mia socialità ubiqua, il mio dialogo con chiunque nel pianeta, ecco, costruendo questi meccanismi di sciame che, come dici tu, possono anche trasformarsi nelle piazze. Abbiamo visto alcuni esempi, ovviamente abbiamo visto anche che stanno prendendo le contromisure, per cui siamo anche in una situazione in cui quando vogliono staccano la spina e la piazza non ha più il collegamento, e sta diventando sempre più possibile anche questo scenario qui. Quindi se vogliamo continuare a mantenere l'idea che le piazze contino ancora, gli spazi contino ancora, bisogna fare attenzione a renderci conto che tra di noi, tra le masse, abbiamo inserito una calza isolante che è di Elon Musk e altri 3-4 soggetti, o nella migliore delle ipotesi il Mossad o altri servizi del genere, e quindi, voglio dire, dobbiamo stare molto sul pezzo per cercare di mantenere aperta questa possibilità di continuare a organizzarci e di avere e costruire una percezione collettiva di essere in qualche modo operativi, perché ci stanno sottraendo un po' alla volta tutti i margini di comunicazione diretta, auto-organizzazione, di situazioni non filtrate. Quindi sì, concordo con te. Però rimango dell'idea che interesting times, decisamente, però che siamo in un momento critico in cui dobbiamo organizzarci, dobbiamo tornare a richiamare, a reclamare lo spazio pubblico e a reclamarlo in maniera appunto non filtrata, non controllata. Dobbiamo cominciare a immaginare quali sono i canali alternativi per poterci organizzare, perché non possiamo pensare di fare attivismo coi click su Facebook, non possiamo pensare di organizzarci attraverso i canali che sono controllati dal nemico, perché secondo me dobbiamo tornare a pensare in questi termini. Cioè siamo veramente in una situazione estremamente pericolosa nella nostra quotidianità. Non pensi che sia già fatto una cosa che non ci possa essere un qualcosa che dovremmo rimanere oggi? Anche io ti prendo, ok? E non ti guardo, ma ti ringrazio attraverso le cose. Questo è già un risultato. Certo, ecco, lo so, sono d'accordo con te. Cioè, se tu vai in un concerto, sì. Ecco, io guardo. E tu vai in un concerto, vedi le migliaia di mani alzate. Io così, e guardo quale? No, io guardo il telefono. Sì. Se io guardo Raria, telefono che guarda i fuochi artificiali, e questa è la situazione di oggi. Non ci nascondiamo dietro un velo, perché non esiste più velo, non esiste nessuno che ha voglia di cambiare, perché a tutti fa comodo avere questo e stare con questo e mandare un messaggino dall'altra parte a Abu Dhabi. E questa è la situazione di oggi. Io sono ultra cinquantenne e le giovani generazioni non sono disposte al sacrificio, se non poche rare mosche bianche che hanno la possibilità, la volontà di guardare oltre quello che facevamo noi, forse nel passato, prendendo pure un po' di botte. Io non sono uno studioso, non sono un antropologo, non sono uno scultore, non sono uno scrittore, non sono nessuno, sono una persona. E quello che vedo intorno è non pericoloso, è già fatto, è già scritto, è già deciso e non c'è possibilità di ritorno. E questo lo dico a malincuore, a meno che non ci sia una setta segreta che possa in qualche modo sovvertire la realtà, ma non è possibile. Il controllo, la globalizzazione, la centralizzazione ormai è in atto, è definita e non è possibile tornare indietro. A meno che non ci sia un qualcosa di veramente importante, ma importante non a livello fisico, ma a livello di mente, ed è molto molto molto difficile. Che te devo dire? Tendo a essere d'accordo con te, ma spero che tu sbagli. Provengo da una città di provincia che è Aprilia, provincia di Latina, è una città di fondazione fascista, quindi la zona era una palude che è stata bonificata e sono stati inviati lì essenzialmente tutti i coloni, quindi persone da tutte le parti d'Italia buttate là. Il territorio poi logicamente è evoluto, è arrivata l'industrializzazione, poi la cassa del mezzogiorno che ha creato una serie di fabbriche, ha portato il nido del benessere e dell'industria. Poi una volta finiti questi fondi è arrivato il deserto, quindi rimangono ormai nella periferia i capannoni. Fino ad arrivare ad oggi, che comunque questa mancanza di radici con il territorio si continua a sentire, perché essenzialmente siamo tutte persone che vengono da fuori, non si sentono legate assolutamente alla città, la città è diventata una sorta di quartiere satellite di Roma, perché tutti quanti, logicamente, non essendoci più un tessuto imprenditoriale industriale, prendono i mezzi e si muovono per andare a Roma. Questo ha creato anche un problema di natura urbanistica, perché logicamente sono arrivati palazzi in aria e hanno creato questi grandi quartieri che sembra che hanno schiacciato un pulsante e si sono alzati i palazzi dal giorno alla notte. Trovi palazzi, perché logicamente gli affitti sono più bassi rispetto a Roma, e tutto ciò, come immaginerai, ha creato tendenzialmente una popolazione di cittadini totalmente disconnessi fra loro. Mettici che non ci sono nemmeno iniziative culturali, non ci sono spazi, e fino ad arrivare ai giorni nostri che il comune è stato commissariato per mafia. Quindi io mi chiedo, logicamente se butti delle persone in un posto senza dargli niente, che cosa vuoi ottenere se non mafia, disagio totale? Arrivo alla domanda, ti volevo chiedere, mi sembra di capire che comunque il tuo studio è più che altro concentrato sulle metropoli, quindi Berlino, New York, eccetera. Secondo te quali potrebbero essere le pratiche di riappropriazione degli spazi urbani e di come dire, di cercare di far riemergere il tessuto urbano? Cioè, per dirti, io se io mi faccio una passeggiata per Aprilia, anche quello che dici te, la brandizzazione, gli spazi, il graffitismo, eccetera, è quasi non esiste, cioè non ci sono queste pubblicità, non ci sono questi graffiti importanti. Quindi un ragazzo che cammina, che cioè vede e recepisce inconsciamente dalla città zero, come si fa a cioè, rialzarsi da questa cosa? Domandona da veramente risposta breve. No, è difficile che io ti possa dare una domanda di questo tipo. Mi aprirebbe il discorso su un altro lavoro, un altro progetto che ho fatto che si chiama Il Centro in Periferi, che è una serie di film sulla dimensione urbana della periferia e sulle pratiche di riappropriazione. Sta lì la parola, nelle pratiche, credo che lo stiamo facendo in tanti, credo che probabilmente qui abbiamo persone più titolate anche di me di parlarne, di riappropriazione. Sicuramente potremmo vedere questo fatto di periferie abbandonate fuori dal centro dell'attenzione, dell'economia dell'immagine, dell'economia dell'attenzione, anche come un potenziale per poter costruire delle alternative. A questo punto, diciamo, ci fanno il favore di non essere troppo interessati a noi, potremmo costruirne un'opportunità. Io credo che questo sia quello che stanno facendo in tanti attivisti, comitati cittadini, gruppi che in qualche modo si sottraggono alla retorica lagnosa che ci hanno lasciato e chiedono ok, lasciateci un po' abbandonati, ma comunque sia dateci i mezzi per costruirci le nostre realtà alternative, e lì diventa interessante. Però ovviamente il cortocircuito è con tutto il discorso che abbiamo fatto finora, perché tanto finché l'immaginario dei giovani della periferia attraverso YouTube si fa è lì la produzione di immagine, voglio dire, la città non è l'urbanizzazione planetaria, l'immaginario non è più un immaginario che ti coltivi nella tua comunità, ma nasce in questa dimensione di rete in cui un influencer sbuca in qualsiasi buco del mondo e acquisisce una capacità di determinare quello che in tanti pensano sia un modello, o attrarre flussi verso le città, o attrarre economie verso determinati settori. Quindi in un certo senso sì, recuperare il contatto con il terreno, trovare delle maniere di sottrarsi al predominio dei flussi, delle immagini prodotte e ricostruire una relazione con le comunità locali e con i territori è da dove dobbiamo ripartire. Se poi mi chiedi il come, organizziamo una conferenza di una settimana su questo tema, ci sono un sacco di esperienze bellissime di gente in giro. E un'altra parte della mia vita faccio questo, vado a vedere gente che fa cose fighe, ce n'è di cui parlare. Grazie.